sembra che in questi giorni il caldo è stato talmente forte, probabilmente tornerà ad esserlo, che davvero dobbiamo ripensare in modo un po' più serio le strategie per consentire a cittadini di Bologna, di tutte le età, ma in questo caso di bambini, di ragazzini, di poter stare meglio nei centri estivi, nelle scuole. Ma come dobbiamo fare? Certo, è chiaro, come in ogni famiglia, se fa troppo caldo si dice dai, compriamo un ventilatore e mettiamo l'aria condizionata, ma sembra che i nostri assessori ragionino appunto in questi termini. Invece bisognerebbe, oltre che ovviamente pensare a questa emergenza, e cominciare a fare dei ragionamenti un po' più seri. Ma che fare dei ragionamenti un po' più seri significa, per esempio, ritornare alla vecchia idea, che pure la vice sindaca sostiene, che ogni scuola d'infanzia deve stare in mezzo a un parco. Ora però, se stare in mezzo a un parco significa realizzare cose come il nuovo nido Cavazzoni, che è stato rifatto tirando giù le piante del parco in cui era inserito, secondo il modello che si voleva fare alle besta e dove per fortuna non è stato fatto, insomma, allora capiamo che la giunta, la nostra amministrazione, è veramente lontana anni luce da una presa di coscienza della gravità del problema, insomma, perché non si può dire c'è l'emergenza climatica e poi abbattere gli alberi nei parchi per costruirci delle scuole che esistono. Ah, ecco, e siamo sempre lì. Quindi Ara e Borsari dovrebbero ripensare davvero a quel piano di edilizia scolastica che prevede, come le besta, così alle Dossa, così alle Volta e in altre scuole di Bologna, no? Prevede l'abbattimento e la ricostruzione togliendo verde e abbattendo alberi. Questo è demenziale, come demenziale pensare di inventarsi il verde portatile per contrastare il cambiamento climatico. Mi sto riferendo a questa simpatica idea degli alberi nel vaso per il salotto buono da presentare ai turisti bolognesi. Insomma, voglio dire, sono idee che a noi fanno sorridere di fronte alla gravità della situazione che si sta creando. Ci vorrebbe davvero un piano, come è stato fatto in altre città, come è stato fatto a Medellin, in Colombia, dove in pochi anni si è abbassata la temperatura di 3 gradi, perché lì sono piantati gli alberi in città e lo si fa a Parigi. Non è una cosa tanto complicata. Ci sono progetti di 30 anni fa legati a soluzioni di questo tipo fatti a Bologna ai tempi di un'amministrazione rossa che ancora non era travolta da problemi di cambiamento climatico, ma che guardava con maggior sensibilità a queste nuove dinamiche. Ecco, quindi insomma gli alberi possono essere ottimi alleati, ma le politiche devono essere coerenti. Ma sì, qui invece non si capisce perché non si riesca a rinunciare a quest'idea che a Bologna comunque bisogna cementificare ancora, e gli alberi sono qualcosa che impedisce lo sviluppo della città. Questo non va bene, nonostante le dichiarazioni, gli atti poi li vediamo, sono veramente ridicoli. Dai pinguini nel nido, che certo vanno messi, ma non è che è una dichiarazione geniale questa, è il minimo, ma sotto il minimo sindacale. Se facciamo ragionamenti di questo tipo, cominciamo a farli con una visione